Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con le riviste e i periodici italiani e stranieri. Qualche segnalazione sparsa questa mattina, voglio cominciare con una di quelle domande di cui forse non si sente magari l'utilità, ma che hanno un loro fondamento. I videogiochi, secondo voi, sappiamo tutti che neghiamo di giocarci, ma poi in realtà molti di noi lo fanno, molti di noi passano anche diverse ore, diversa parte del loro tempo sui videogiochi. Ma i videogiochi, secondo voi, sono una forma d'arte? Perché se lo chiede Chuck in edicola per il mese di novembre, tra i vari servizi si occupa anche dei videogiochi come forma d'arte e mette proprio a confronto due autori, Marco Consoli da una parte e Camillo Regina dall'altra, perché sostengano l'uno le tesi del sì e l'altro le tesi del no. Naturalmente poi i videogiochi, come dire, hanno anche delle dinamiche pesanti in famiglia, ma di questo parleremo dopo, perché su un'altra rivista invece abbiamo trovato una citazione interessante sempre in materia di videogiochi. Allora, per le ragioni del sì, ma certo che i videogiochi sono arte, perché se il cinema è chiamato la settima arte, allora anche i videogiochi, in quanto riguardano un atto creativo che ha l'intenzione di suscitare delle emozioni, bene, sono sempre arte, così scrive Marco Consoli. Oltretutto assommano in sé altre arti: il disegno di fondali, di personaggi, la musica, l'intreccio letterario, la trama, i dialoghi, e qualche volta possono anche essere considerati delle espressioni di autore. Quindi l'interattività, l'intervento del giocatore poi con le sue scelte nelle vicende che sono predefinite dai programmatori, ecco, questo fa sì che i videogiochi diventino una forma d'arte che esprime in una maniera diversa, forse più efficace del cinema, l'epoca del grande racconto sociale. Questa è la tesi a favore dei videogiochi, quindi a favore di tutti quelli che amano anche giocarci. Argomenti invece per chi vuole impedire a figli, coniugi e quant'altro, insomma, di passare il tempo davanti al videogioco, ve ne do qualcuno traendolo da Camillo Regina: non è affatto così, dice lui. Se l'arte deve anzitutto emozionare, i videogame come forma d'arte si sono fermati al grado zero, sono alla superficie delle possibili emozioni di tipo fondamentale che possono suscitare nel pubblico, tra lo spavento e altre emozioni di questo tipo. E dice: proprio dallo spavento misto a meraviglia che venne suscitato dal treno dei fratelli Lumière, ricorderete che quando cominciò la storia del cinema c'era questa famosa ripresa di un treno fatta proprio dai fratelli Lumière che puntava verso la cinepresa, e gli spettatori in sala, non abituati chiaramente al film, si alzavano spaventati correndo via da questa locomotiva che avanzava verso di loro. Ecco, dice però Regina, abbiamo fatto diversi passi appunto nel cinema rispetto a quanti secondo lui non ne hanno fatti i videogiochi. Il cinema è maturato nel linguaggio, nella tecnica, si è sfaccettato nei generi, mentre nei videogame il miglioramento tecnico è teso quasi esclusivamente a ottenere un realismo grafico più avanzato, e i generi individuano di solito solo il grado e il tipo di interazione. C'è il videogioco che spara, c'è il gioco di piattaforme, c'è il puzzle, c'è il videogioco strategico, e poi ci si basa su meccanismi molto, molto elementari. Queste sono le tesi quindi contrarie per il videogioco come forma d'arte. Chuck propone anche un'estensione su Facebook. Se andate nella pagina Facebook di Chuck, che è facebook.com/ Chuck Magazine, scritto tutto attaccato senza punti né nulla, trovate anche la possibilità di esprimere il vostro parere. Questa la domanda del mese di Chuck. Però tutto può cambiare se quando a usare i videogiochi non sono degli adulti, quindi non si tratta al massimo di litigare con un marito che passa troppo tempo davanti alla PlayStation, ma invece quando i videogiochi coinvolgono i bambini, coinvolgono i figli. I videogiochi fanno bene o male? È quindi una domanda un po' diversa dalla domanda del videogioco come forma d'arte, di tutt'altro impatto emotivo, che viene riportata su Donna Moderna di questa settimana. E risponde a questa domanda un guru del virtuale, così viene definito, si chiama Larry Rosen, insegna all'Università della California e da anni proprio studia gli effetti della tecnologia sui bambini e sugli adolescenti. E tutti sappiamo, tutti coloro che sono genitori sanno quanto ci sia da preoccuparsi vedendo questa dipendenza quasi fisica che i bambini possono sviluppare nei confronti dei videogiochi, che siano appunto da console, che siano portatili o anche solo il fatto di giocare con i giochi messi a disposizione dagli smartphone, dai telefonini più recenti che magari sono dei genitori. Ecco, quindi qualche indicazione che arriva, devo dire, di segni un po' opposti. Da una parte dice: se un bambino passa la maggior parte del tempo alla console, spiega Rose, una donna moderna, allora questo può diventare un problema. Perché? Perché ha in continuazione a che fare con oggetti irreali e questo rischia di distorcere la sua capacità di distinguere tra ciò che è vero e ciò che è falso, tra ciò che è lecito ad esempio e ciò che non lo è. Quindi gli chiedono: ma allora se sta troppo davanti allo schermo perderà questo contatto con la realtà, ci saranno dei problemi? Dice: sì, è possibile che si crei un falso mondo in disaccordo, però ci sono anche delle cose positive nei videogame, dice Rosen, ci sono molti aspetti educativi, ci sono dei videogiochi educativi che aiutano a sviluppare, a migliorare delle abilità, la capacità di muoversi nello spazio, di controllare i personaggi, di risolvere problemi, la stessa coordinazione, la prontezza di riflessi o la velocità di ragionamento. Per di più, continua appunto in questa intervista raccolta da Isabella Fava, il videogioco spesso ha una trama che è simile a quella di una favola, entrano in ballo quindi emozioni legate al successo, al fallimento e portano poi in mondi meravigliosi con grafiche colorate e curatissime come quelle dei cartoon. Gli chiedono: ma c'è un'età giusta? Lui dice: gli psicologi consigliano non prima dei 3 anni e poi ci sono anche delle linee guida per aiutare i genitori a orientarsi. Bisogna scegliere i videogiochi come adatti all'età. C'è un sistema informativo europeo che indica appunto l'età adatta per il videogioco, per l'acquisto del videogioco, e tuttavia, dice Rosen, bisogna vigilare perché in uno dei nostri studi abbiamo riscontrato che oltre il 40% dei bambini utilizza normalmente i videogiochi che sono stati concepiti per ragazzi più grandi. Ma se vogliamo tagliare la testa al toro, allora torniamo su Chuck, i film in uscita in questo mese. Voi sapete che Chuck ha queste pagine molto utili se volete programmare un'uscita, visto che è domenica, magari anche il clima, come dire, non aiuta, ma invoglia passare un po' di tempo in un cinema. Allora ci sono un po' di film che arriveranno questo mese, sono già arrivati, come sapete, I soliti idioti o Cambio vita. Vi segnalo che arriveranno settimana prossima Il cuore grande delle ragazze, debutterà venerdì 11, di Pupi Avati, Lezioni di cioccolato 2 di Alessio Maria Federici, e poi un po' più avanti, cioè settimana l'altra, il 18 di novembre, debutterà Scialla di Francesco Bruni, un film di cui probabilmente avete già visto dei trailer. Per tutti questi film, come sempre, Chuck presenta anche delle schede, dei giudizi di lettura, dei consigli anche di visione che accompagnano poi le informazioni fondamentali relative ai film del mese. Tutto questo su Chuck di novembre. Cambiamo completamente argomento, passiamo a Popoli. Popoli è la rivista dei gesuiti, è una rivista che trovate facilmente su internet, l'indirizzo internet è www.popoli.info, ma vi potete anche abbonare, potete avere l'edizione su carta. Noi qui in studio abbiamo l'edizione appunto su carta. C'è una bella inchiesta che comincio a segnalarvi, poi ci fermeremo un attimo per le informazioni sul traffico, dedicata alla contraffazione dei farmaci. Di Massimo Ruggero, e mette insieme tutta una serie di allarmi che sono stati lanciati da diverse organizzazioni, dal Parlamento europeo, da partiti politici, perché c'è una quantità preoccupante di farmaci contraffatti. Cosa significa contraffatti? Significa che nella migliore delle ipotesi non fanno nulla, nella peggiore sono addirittura nocivi. I numeri sono molto alti, perché secondo un istituto di ricerca americano ci sono almeno 750 150.000 persone che ogni anno muoiono proprio per le conseguenze di questi prodotti farmaceutici falsificati, e c'è anche un problema naturalmente di tutela normativa. La situazione naturalmente è molto più grave nei paesi in via di sviluppo o nei paesi poveri, dove appunto l'utilizzo di questi farmaci diventa veramente una pratica criminale, non che non lo sia nelle società avanzate, ma qui fa molti più danni di quanti può fare da noi. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Vi stavo parlando di questa inchiesta che appare su Popoli, mensile dei gesuiti, che trovate, ripeto, su internet, ma al quale è possibile anche abbonarsi. Un'inchiesta dedicata ai farmaci contraffatti. Farmaci contraffatti che, secondo il confronto di dati che propone Massimo Ruggero, hanno degli effetti molto molto pesanti. E spiega appunto Ruggero che il fenomeno non interessa solo i paesi in via di sviluppo, ma anche gli Stati Uniti, anche noi, anche l'Unione Europea, perché più della metà dei medicinali acquistati via internet sono fasulli, inefficaci o addirittura dannosi. Lo dicono le statistiche, lo dicono i sequestri di medicinali contraffatti nel cosiddetto nord del mondo. Questi sequestri sono aumentati di oltre il 400%, e soltanto nel 2010 nella UE, nell'Unione Europea, sono state ritirate sostanzialmente 42 milioni di pillole false. False significa appunto falsi antibiotici, falsi vaccini, che producono delle ripercussioni gravissime. Il tema è noto già da tempo, sono state anche di recente, proprio nel febbraio di quest'anno, modificate delle direttive finalizzate a impedire ingresso e vendita di farmaci contraffatti nella filiera farmaceutica legale. Questo naturalmente, l'invasione dei farmaci falsi avviene soprattutto via internet, perché secondo una ricerca presentata dal PSE, al Partito Socialdemocratico, al Parlamento Europeo, il 62% dei farmaci che si acquistano in rete è falso, e addirittura il 95% delle farmacie che si trovano in rete è di fatto illegale. Sempre con percentuali analoghe, cioè il 94% dei siti propongono identità di farmacisti che non sono verificabili. E poi c'è naturalmente il discorso di vendere farmaci senza ricetta, senza prescrizione, il che naturalmente aumenta il pericolo, perché lì, oltre al rischio della contraffazione, si va incontro anche al rischio di prendere dei farmaci che non sono assolutamente adatti alla propria salute. Naturalmente, come vi dicevo prima dell'interruzione, per il traffico il problema è gravissimo negli stati più poveri, è gravissimo nella distribuzione di medicinali che può essere fatta in questi stati, e sono stati fatti dei test per verificare qual era la reale dimensione di questo fenomeno. Bene, in molte regioni africane risulta che un farmaco su tre è di fatto falso, cioè inefficace quando non dannoso. Non vorrei che si pensasse a un'equivalenza internet uguale dannoso per la salute. Allora, su Vita di questa settimana, sanità low cost. Perché? Perché ci sono anche delle possibilità, come dire, ottime di trovare magari delle cure sanitarie, cure perfettamente lecite, perfettamente legali e certificate su internet, sfruttando degli sconti. Pare brutto parlare di denaro quando si parla di salute, di solito i due argomenti vengono pudicamente tenuti separati, ma è un dato di fatto che talvolta ci sono delle cure che finiscono per costare troppo. E allora ci sono questi siti come Groupon, Groupalia, Exploro, che propongono degli annunci in cui ci sono appunto degli sconti per dei check-up, per dei trattamenti odontoiatrici e cose del genere. Naturalmente i medici, come riferisce Antonio Sgobba, non l'hanno presa molto bene, anzi diciamo pure che l'hanno presa malissimo, hanno fatto partire segnalazioni ai carabinieri, esposti al garante della concorrenza, lettere al ministro della salute, contestando appunto questo approccio mercantile alla salute, che a loro dire appunto travolgerebbe il normale, il corretto rapporto tra medico e paziente. Però di fatto ci sono dei piccoli studi, spesso studi di giovani, che in questo modo cercano di farsi una clientela, magari a danno di studi più affermati. L'ordine parla di rischio per la salute, scrive Sgobba, i consumatori però riferiscono che al momento non hanno segnalazioni, le associazioni dei consumatori. Nessuno si è mai lamentato, dicono da uno di questi siti, per la qualità dei servizi che ha acquistato. Spesso sono anche servizi abbastanza di base. Tra l'altro non è irrilevante il fatto che noi italiani spendiamo sempre di più per la salute. In media, secondo l'OCSE, abbiamo speso 453 euro a testa nell'ultimo anno, nel 2010, e l'anno prima avevamo speso 440 euro. In generale siamo uno dei paesi europei che ha la maggior percentuale di spesa sanitaria definita out of pocket, cioè fuori dalle tasche statali, ma nel senso che si paga di tasca propria. Siamo uno dei paesi, insomma, che spende di più in sanità. Non è sorprendente che ci siano anche dei successi per chi propone dei servizi sanitari via internet sfruttando questa politica del low cost. E allora, visto che siamo arrivati a parlare di denaro, in questo periodo non è difficile finire a parlare di denaro, a parlare di crisi, allora vi segnalo sull'Espresso di questa settimana un bell'articolo di Uri Dadush. Uri Dadush è senior associate dell'Istituto per la Pace, e viene riportato questo suo articolo. È un economista esperto, si fa una domanda, la cosiddetta domanda tabù: ma dobbiamo davvero restare nell'euro? Siccome questa domanda ha avuto anche un'eco politica di recente, mi sembra importante riportare alcune precisazioni, riferire alcune precisazioni che vengono appunto presentate sull'Espresso. Ci sono i pro e i contro, naturalmente. Cioè, è vero che ad esempio negli anni 70 e 80 avevamo un'inflazione in Italia molto più alta, quindi magari, per carità, le dinamiche salariali crescevano maggiormente, ma anche il nostro potere d'acquisto si deprimeva molto più rapidamente. Con l'euro abbiamo migliorato il tasso di inflazione attorno al 2-3% o poco superiore, finora si è rivelato come uno dei maggiori successi della moneta unica, ricorda Dadush. D'altra parte è vero che il passaggio all'euro ha provocato qualche problema di competitività, perché il costo del lavoro è aumentato per noi che sfruttavamo, per noi italiani che sfruttavamo anche il favore del cambio, è venuto meno questo argomento. Però qual è la conclusione finale? Che ci potrebbero essere anche delle famiglie, delle imprese che magari hanno i beni all'estero, potrebbero guadagnare da una svalutazione, ma in generale noi, Stato italiano, e le imprese che attingono ai prestiti sul mercato nazionale e internazionale avrebbero alla fine ingenti perdite e correrebbero il rischio di insolvenza. Perché? Perché chiaramente diminuirebbe la nostra affidabilità, quindi dovremmo emettere titoli di Stato con tassi di interesse molto più alti, e questo già è una prospettiva che non ci possiamo permettere. Dice Dadush, ci sarebbe un'enorme crisi finanziaria seguita da un contenzioso almeno decennale. Tra l'altro, alcuni episodi che si sono verificati nei mercati emergenti, un po' simili a queste crisi legate alla valuta, hanno portato a contrazioni medie di circa il 5%. Secondo alcune stime, l'uscita dall'euro potrebbe costare all'Italia fino al 50% del PIL. Questa ipotesi è quasi certamente un'esagerazione. Potremmo supporre che il PIL diminuisse solo del 10%, ma questo vorrebbe dire che poi, crescendo all'1-1,5% anno, ci vorrebbero circa 25 anni prima di tornare al livello precedente. Questo è il ragionamento presentato sull'Espresso di questa settimana da Uri Dadush, che conclude seccamente: la risposta che diamo alla domanda tabù è: non pensiamoci nemmeno ad uscire dall'euro. E allora siamo ai saluti, siamo alle segnalazioni finali. Grazie innanzitutto a Fabio Cantadori questa mattina in regia, grazie come sempre ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questa puntata. Vi ricordo, con il Sole 24 Ore oggi, i racconti d'autore Nadine Gordimer, i racconti di Nadine Gordimer come sempre in edicola come ogni domenica, e poi ancora trovate in edicola la guida agli affitti a proposito di denaro, e se invece volete qualcosa di più dolce, La grande pasticceria d'autore, una collana che questa settimana propone il volume dedicato alle crostate. E allora una dolce domenica a tutti.